Palla Spicchi di Dario Ricci. Niente basket giocato oggi, perché il campionato, come ben sapete, ha fatto spazio anche lui alla Coppa Italia per evitare un po' troppo traffico in una Roma che vive davvero una domenica speciale. Però Palla Spicchi c'è, squadra al completo, Valeria Bernardi in regia e tanto basket di cui parlare con la squadra del pallacanestro della Palla Spicchi di Radio 24. Semifinali che, come sapete, sono iniziate con la vittoria di Roma in gara 1 in rimonta clamorosa, direi, al Palatiziano su Cantù, e con l'altrettanto sorprendente successo esterno di Siena a Varese, perché tutti a dire che non è la stessa Siena di una volta, ma quando comincia a contare, eccola là la Montepaschi che è pienamente in corsa per difendere il suo tricolore. Allora, andiamo proprio ad analizzarle queste semifinali, quelle giocate e soprattutto quelle che stanno per arrivare con le gare 2. Partiamo proprio da Roma, dove troviamo il nostro Fabrizio Fabbri. Fabrizio, buonasera. Buonasera a tutti. L'hai sudata, l'hai vista brutta l'altra sera, per la tua CEA, dai. Una partita difficilissima che francamente a un certo punto avevamo anche fra gli addetti ai lavori considerato chiusa, vista la differenza di approccio, visti i 19 punti di vantaggio accumulati da una Cantù che era assolutamente un orologio svizzero sia in attacco che in difesa, condotta da un Ragland che è stato il protagonista della prima metà di gara. Poi la zona di Calvani, poi da Tome che sale in cattedra, poi Phil Goss che si mette a fare il leader e soprattutto il famoso asse playmaker pivot, quello di cui tanto si parla in ogni squadra, vale a dire Taylor Lavalle, che ha cambiato la faccia di questa partita. Punto dopo punto, addirittura Roma avrebbe potuto chiudere alla fine del regolamentare se l'uno su quattro, messo insieme proprio da Taylor e Lavalle, non l'avesse penalizzata. Poi nel supplementare Roma ha sempre condotto, è stata brava quando Mazzarino ha insaccato la tripla del più due a riandare immediatamente in vantaggio con Phil Goss, e a quel punto diciamo è stata tutta una strada in discesa, anche se dobbiamo mettere nelle statistiche il 4 su 4 di Lavalle determinante dalla lunetta. Quello è stato un bel jolly. Cantù è andato a fare fallo apposta su Lavalle e questa volta è stata punita. Fabrizio, 349-238-6666 se volete mandarci i vostri sms. Ora, gara 2 domani sera, diciamocelo chiaramente, secondo me Cantù è favorita perché ha un roster più profondo, è una squadra con più esperienza e per tutti i motivi che sappiamo, però è anche vero che delle avversarie di Roma, questo si dice dall'inizio del campionato, e Roma è lì, pronta a trasferirsi al Palaeur nel caso che la serie dovesse un po' allungarsi, no Fabrizio? Sì, questo è assolutamente vero, semmai Roma dovesse arrivare in finale si tornerebbe al Palaeur, perché anche nella partita con Cantù, alla fine, nonostante poi la prevendita fosse stata aperta alle 15 del giorno prima, perché c'erano stati proprio i problemi di cui avevi parlato legati allo spostamento della gara della domenica per il derby di calcio, diciamo si tornerebbe al Palaeur, ma secondo me, io concordo, Cantù resta favorita per la profondità del suo roster. Vedere Tabu e Cousin fare da semplici, diciamo, comparse, fa capire quanto materiale abbia a disposizione Andrea Trinchieri. Certo che Roma ci proverà fino in fondo, io dubito che possa essere ancora una volta la zona, l'arma con cui Roma potrà portare a casa questa vittoria. Roma dovrà affidarsi alla leadership del suo leader Massimo, perché quello che sta facendo vedere Gigi D'Adome ormai sfugge da qualunque tipo di commento che possa essere un commento normale. Anche in gara 1 i 23 punti con quelle cifre, quel 22 di valutazione finale, stanno a significare ormai veramente che è un giocatore dominante per il campionato italiano. Dall'altra parte Cantù dovrà capire quali sono stati gli errori di gara 1, la mole di palle perse dalla squadra di Trinchieri, che è stata assolutamente il dato probabilmente che ha cambiato la partita, e capire se magari all'interno del proprio meccanismo, parlo di coesione di squadra, qualcosa non si sia rotto, perché l'impressione, qualche sguardo, qualche faccia, qualche parola volata, è che all'interno dello spogliatoio di Cantù non siano tutte rose e fiori. Insomma, l'ambiente è caldo e non da gara 1 delle semifinali. Grazie a Fabrizio Fabbri, staremo a vedere domani sera subito al Palatiziano questa gara 2, quali saranno le nuove mosse che Trinchieri e Calvani metteranno sulla scacchiera, pardon, sul parquet. Roberto Nardella invece, spostiamoci al nord, caro Roberto, e prima di chiederti qualcosa su Varese, vorrei invece sollecitarti sulla Milano, che finché è rimasta in campo hai seguito puntualmente partita dopo partita. Scariolo se ne va, quali scenari si stanno aprendo in questi giorni dopo che la rottura di questo rapporto tecnico così travagliato è stata ufficializzata, Roberto? Pronto Roberto? Niente da fare, domanda che probabilmente resterà in sospeso, almeno per questa puntata. Ci proviamo intanto ancora Roberto Nardella, vediamo. Pronto? Roberto, eccoci qua, ti abbiamo ritrovato sotto canestro. C'era stato un vigoroso tagliafuori che ti aveva lasciato esatto. Fuori dalle comunicazioni. Dicevamo, rottura con Scariolo, e in questi giorni quali situazioni sono maturate in casa Olimpia? Perché il nome più gettonato è quello di Obradovic, che forse è anche il più irraggiungibile. Decisamente d'accordo con te, si è parlato anche di Tenegiani, si è parlato di almeno altri 10 nomi di allenatore, di rango o meno, poi lo sceglierà il futuro risultato che riuscirà l'allenatore ad ottenere sulla panchina di Milano. Mi sembra presto, non prestissimo, qualcuno ha buttato lì che l'allenatore prossimo di Milano starebbe ancora giocando i playoff, andando per esclusione tutto porterebbe verso coach Vitucci, vedremo poi se si potrà... Ah, perché Trinchieri no, dici? Trinchieri mi sembra difficile, sarebbe il ritorno del milanese a Milano, però francamente la vedo difficile. Io non avrei una preferenza. Dai rumors sembrerebbe appunto i nomi di cui hai parlato tu, di Obradovic, è il sogno raggiungibile, però non vorrei che poi a Milano si ricreasse una situazione come era stata con Messina prima e con Scariolo poi, tanto inseguiti. Scariolo era arrivato ma non in primissima battuta, nel secondo inseguimento, chiamiamolo così. Non vorrei che poi con Obradovic succedesse lo stesso, perché poi quando Milano ha raggiunto quest'anno il suo punto più basso, proprio durante la gestione con coach Scariolo, quando la panchina era traballante dopo la sconfitta di Montegranaro, Obradovic era lì libero e forse era anche più prendibile tra virgolette, però credo che voglia anche delle certezze al massimo livello di Eurolega, che non credo francamente Milano possa garantire adesso, anche per discorsi di contratti che ha con alcuni giocatori che sono in essere, e ci sarà anche da capire come riuscire a svincolarsi da questi contratti. Certo, che poi tra l'altro sono giocatori che spesso a Milano hanno fatto discretamente male, altrove pur rimanendo legati all'Olimpia hanno fatto invece discretamente bene, e mi viene in mente il nome di Hendrix, tanto per citarne uno. Ti chiedo ancora invece, guardando in casa varesina, questa botta subita con Siena rischia di lasciare degli strascichi, e non solo sulla sfida diretta di semifinale, oppure pensi che Vitucci nel giro di 48 ore abbia già ricaricato le pile ai suoi? Io me lo auguro per poter avere modo di assistere magari a 6-7 addirittura, come è stato nel caso contro Milano, di partite tra Varese e Siena in questo caso, prima della serie, parlando poi con gli addetti ai lavori, subito dopo gara 7, che aveva permesso a Siena di guadagnarsi la semifinale e l'eliminazione poi di Milano, di cui parlavamo un istante fa, ero abbastanza convinto che potesse essere ancora una volta Siena la favorita, vuoi per il fatto che comunque secondo me Varese tra virgolette la teme, anche per il discorso di Coppa Italia, non dimentichiamolo, quando Siena letteralmente aveva mangiato in testa a quella che a tutti gli effetti era la sorpresa del campionato, la prima in classifica, che giocava contro una Siena che forse sembrava non essere più quella degli anni scorsi, mentre si sta riscoprendo tale. E proprio il concetto chiave, la parola chiave secondo me l'hai usata giustamente tu in apertura di trasmissione, l'esperienza, e l'esperienza dei giocatori di Siena, tolta Hackett che deve aver fatto un corso accelerato, nessun'altra squadra in questo momento ce l'ha, e l'hanno dimostrato anche in gara 7 a Milano, vincendola dall'inizio alla fine. E allora Roberto, intanto ti ringrazio, tra l'altro ci hanno già raggiunto Stefano Valenti e Carmelo Presti Simone, fra poco il traffico, 20 secondi per rispondere a Paolo, appassionato di golf, che ci dice non date la notizia che Matteo Manassero ha vinto il BMW PGA Championship in Inghilterra. Ah Paolo, Paolo, l'abbiamo detto nel nostro GR Sport, l'abbiamo pescata in fuorigioco, anzi no, insomma in taglia fuori, ma qui questo si sa, è lo spazio del basket. Palla Spicchi. Eccoci ritrovati qui a Palla Spicchi subito con Stefano Valenti. Ben ritrovato Stefano. Ciao, buonasera a voi. Stefano, senti, se ti stuzzicassi subito sui playoff NBA, no? Visto che un pochino il terreno delle semifinali del nostro campionato l'abbiamo già arato. Vedo qua, apro i siti, vedo la faccia di Tim Duncan e dico, beh, insomma... Un 37enne così sotto canestro fa ancora discretamente comodo agli speroni, eh? Sì, beh, durante l'anno poi Popovic l'ha anche fatto risparmiato, no? Ha pure preso una multa per avergli fatti riposare. Esatto. Oggi non se ne parla più, al momento si era fatta anche un po' di polemica, oggi non se ne parla più perché evidentemente conosce molto bene i suoi polli, che poi in realtà sono i suoi campioni. È chiaro che nel contesto di San Antonio credo che ci sia una grande coalizione verso questa impresa di una squadra fatta da grandi giocatori, alcuni anche in là con gli anni, che però vogliono dimostrare di avere ancora qualcosa da dire. Per certi versi un nuovo titolo agli Spurs sarebbe veramente una notizia, visto la verosimile avversaria di finale, pure se insomma Indiana fa parlare. Eh sì, beh, diciamo che coach Popovic non avrebbe alcun problema a scegliere il vino più adatto per festeggiare, essendo lui un grande intenditore. Detto questo, è un 3-0 che chiaramente quasi di fatto ha chiuso la serie con Memphis, e Zach Randolph ha un gran mal di testa dopo questa serie, perché dopo le ultime tre stagioni fatte ad altissimo livello, Tim Duncan l'ha riportato un po' a scuola, no? Sì, beh, credo che proprio ci sia l'essenza del grande campione. Io adesso non so, il paragone può sembrare irriverente, però mi sembra di vedere il Mike Mitchell che abbiamo tutti nel che cuore, spettacolo. Che in Italia, nonostante l'età, con tecnica pura, controllo del corpo, intelligenza, conoscenza del gioco, ovviava quella che veramente non era esplosività, atletismo e quanto d'altro. Rivedo un po' questo duello, e questo per dire l'ammirazione che secondo me dobbiamo sempre avere ben salda nei confronti di questi veri campioni, che tra le altre cose sanno prolungare così tanto la carriera, a maggior ragione in NBA, dove le partite sono veramente tante e quelle dei playoff sono terribili per intensità e ovviamente anche per logorio fisico. Quindi vuol dire che dietro c'è anche il campione che sa curare il proprio corpo e riesce a essere competitivo contro quelli che ogni anno si ritrova davanti e magari sono tutti più giovani, freschi, atletici e quanto d'altro. Eh sì, in questo senso San Antonio è davvero un manuale aperto. Indiana a parole lo dice, ci crede, nei fatti secondo te può fare davvero questo clamoroso sgambetto agli Heat? Non lo so, mi sembra obiettivamente difficile, però è indubbio che questa è la sfida più affascinante. Indiana è arrivata a questa serie secondo me con un aumento di fiducia pazzesco, non con poca pressione addosso, perché quando si incrociano gli Heat obiettivamente ci si attende sempre il successo di Miami, e invece Indiana sta emozionando e sta riportando, no, alla luce il suo passato, il passato importante, le storie, i suoi grandi giocatori. Ora ci sono stati tanti anni, diciamo, di buio, però adesso improvvisamente ci si riscopre sfidanti di Miami, e mi sembra che questa squadra abbia le facce giuste per provarci, sapendo che l'impresa è dura, però al tempo stesso esaltante. Quindi io non mi sorprenderei se la serie dovesse allungarsi. Eh sì, le facce e i fisici giusti, perché poi questa Indiana per alcuni aspetti è un po' il corrispettivo ad est di quello che è Denver. Magari manca la superstella, tra l'altro Danny Granger quest'anno ha anche di fatto saltato quasi tutta la stagione, ma c'è una sporca dozzina fatta di atleti e giocatori di medio-altissimo livello che è veramente difficile da battere. Grazie Stefano, ci ritroviamo domenica prossima, ti interrogerò anche sul campionato, prometto. Va bene, ci mancherebbe. Ciao Dario, alla prossima. Grazie a Stefano Valenti. Chiudiamo con Carmelo Prestisimone. Carmelo, grazie per la pazienza che hai atteso fino a questo istante. Carmelo, viene da dire dulcis in fundo. In realtà tocchiamo un argomento amaro, anziché no, perché Caserta in queste ore vive momenti decisivi per la iscrizione al campionato Venturo, no? Esattamente, Dario, è una situazione complicata quella della Juve Caserta, come è stata complicata dal punto di vista finanziario tutta la stagione che hanno vissuto i campani, perché giovedì c'è un incontro importante tra il presidente del club della Juve Caserta, Iavazzi, e il notaio per la ricapitalizzazione della società, e questo avviene praticamente 24 ore prima della scadenza per quanto riguarda il termine ultimo di iscrizione alla Serie A. È un momento importante naturalmente perché la Juve Caserta appunto vive una situazione particolare anche dal punto di vista tecnico, perché Pino Sacripanti oggi giustamente è in vacanza, il coach che ha traghettato la squadra a una salvezza più che serena con vista sui playoff, e incontrerà la proprietà solamente il 7 giugno, quindi a Certo, situazione ormai. a quel punto la situazione sarà chiarita, però bisogna capire in che direzione, no, Carmelo? Tra l'altro, ecco, ti dico invece, novità in vista, aggiornamenti importanti anche su Napoli. Esattamente, mercoledì c'è la conferenza stampa, guarda, è notizia proprio di poco fa Bene. della presentazione del Napoli Basket e dell'ufficializzazione, dell'annuncio ufficiale del passaggio delle quote dalla Fortitudo Bologna, vecchia Fortitudo Bologna, oggi si chiama Bianco-Blu Bologna, al Napoli Basket, che sarà presieduto da Maurizio Balbi in tandem con un socio di maggioranza come Dario Boldoni. Il coach sarà Demis Cavina, che ha allenato fino a qualche settimana fa Scafati, che poi ha venduto, che sta vendendo il titolo, insomma, fino al 10 giugno c'è possibilità di salvarlo, però molto probabilmente Scafati non avrà più la sua squadra di basket. La suggestione di mercato si chiama Mason Rocca, che nel 2006 vinse la Coppa Italia proprio con la Carpisa Me lo Napoli. ricordo bene perché batteste noi di Roma, accidenti, caro Carmelo. Tu In quel di Forlì, in quel di ecco, Forlì. bravo, vedi, ecco, ricordami questa ferita ancora aperta e speriamo di prenderci presto la rivincita nella massima serie. È un augurio sicuramente agli amici del basket partenopeo. Beh, Carmelo, insomma, da quello che ho capito, questa settimana sarai più in giro tra notai, fiscalisti e quant'altro che per parquet. Porta pazienza e poi domenica prossima faremo il punto anche su questa situazione. Grazie a Carmelo Prestisimone, ci ritroviamo domenica in campo. A voi, ciao Dario. Allora, grazie davvero a Carmelo Prestisimone, ancora qualche istante perché ci sono anche dei risultati importanti che stanno maturando, I playoff di Lega 2 sono infatti arrivati alle semifinali, gara 1 all'intervallo lungo, fine primo tempo, Centrale del Latte Brescia, Bitum Calor Trento 46 a 37, mentre è iniziata da poco più di 4 minuti la sfida tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Novi Più Casale Monferrato, risultato di fatto in parità, siamo sul 10 a 9 su Pistoia e quindi occhio anche ai playoff di Lega 2 che garantiscono sempre grande spettacolo. Siamo arrivati alla fine, un grazie a tutti gli amici che hanno partecipato, a tutti voi all'ascolto, a Valeria Bernardi in regia, Palla Spicchi torna domenica prossima, domani alle 14, tutti convocati da Carlo Gente. Un saluto da Dario Ricci.